Rock Wave Live presenta Io mi racconto con Gilles Facchinelli e i suoi ospiti. Tutti i giovedì dalle ore 20.30 alle 21.45 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Buonasera, buonasera e benvenuti a Rock Wave Live, Io mi racconto. Questa sera non parliamo propriamente di musica, ma qualcosa che rimane ugualmente legato alla musica, visto che spesso la musica si lega al sociale. Questa sera parliamo di genitori in fuga. Detto così, non dà il significato preciso di quello che andremo a parlare, perché sembra una fuga dei genitori dai propri figli, ma non è così. Anzi, tutt'altro. Parleremo di teatro, di volontariato, di amore, passione, di gruppo e di altro ancora. Visto che ho introdotto la parola teatro, vado a presentare i miei ospiti di questa sera. Inizio da Veronica Bonomo, che è la presidentessa dell'Associazione Genitori in Fuga. Buonasera. Ciao Veronica, posso darti del tuo? Sì, certo. Ciao Veronica, allora. E grazie. Ciao. Cristina Rossi, storica fondatrice del gruppo E Tutto Fare. Ciao a tutti. Poi abbiamo Elena Magello, tesoriera e regista. Buonasera. Daniele Minozzi, il regista e lo scrittore del gruppo. Ciao a tutti. E Paolo Favarato, che ruolo ti do, Paolo? Ah, quello che vuoi, il giullare. Ecco, dico subito che ancora prima di iniziare è arrivato un messaggio. Dice: forza genitori in fuga. Grazie. Ecco, grazie. Prima di entrare un po' sull'argomento, diciamo anche che siete una piccola parte di questo gruppo. Non so se ci tenete anche nominare che qualcun altro che fa parte di questo gruppo, o sono talmente tanti? Ma direi che siamo veramente tanti. Da nominarli tutti di sicuro dopo ci potremo dimenticare qualcuno, quindi tutti i genitori in fuga e non li salutiamo da qua. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao ragazzi, facciamo i bravi, ve lo promettiamo. Più o meno. Altro messaggio, Tony, Somi, Beppi, cosa fai là? Bravi ragazzi, se ci credi ci riesci. Questo lo stavamo aspettando. E questo arriva dall'ultimo spettacolo, dove ci sono due simpatici vecchietti e uno dei due l'abbiamo lasciato a casa questa sera. E quindi sta chiamando il suo collega, perché il cantiere va avanti. Ecco, allora, entriamo un po' nel vivo di cos'è, cosa fanno. Inizierei proprio per dovere dalla vostra presidente, Veronica Bonomo. E la domanda, Veronica, è d'obbligo, perché da qui poi tutto parte il resto dell'intervista. Quando è nata, perché e soprattutto cosa fa questa associazione Genitori in Fuga? Questa associazione no profit, appunto, Genitori in Fuga, è nata da una storia straordinaria, diciamo che la storia della mia bambina, che è guarita miracolosamente da una malattia oncoematologica quando aveva solo 5 mesi. Diciamo che io non conoscevo ancora questo gruppo di genitori, ma stavo vivendo in famiglia un periodo bruttissimo a causa appunto di questa malattia. Quando non c'era più nessuna speranza ormai, pensate il caso, era proprio il 31 gennaio del 2012 a quest'ora più o meno, arrivò veramente un barlume di luce in fondo al tunnel. Quel barlume, ce lo comunicarono poi i medici, era un trapianto di midollo urgente e l'unico donatore possibile era il padre. E quello è stato l'inizio di tutto, diciamo un momento che si può chiamare il giorno zero, ma dal quale poi è partita la nostra rinascita, la nostra rivincita. E subito dopo ho conosciuto questo gruppo fantastico, perché comunque avendo un altro figlio dovevo anch'io reagire e frequentare anche insomma la società, in quanto ho passato un periodo, un anno insomma, di isolamento per motivi di salute per la bambina. E così in occasione proprio di uno spettacolo teatrale piccolino che si stava organizzando per i nostri figli, appunto il mio figlio più grande, era l'ultimo anno della materna, maggio 2013, ci siamo trovati, abbiamo fatto questo spettacolino insieme e dopo il quale sinceramente io ho sentito un vuoto, perché uscire dalla mia situazione per andare, diciamo, proprio per provare, per discutere, per scegliere anche i costumi da usare per questo spettacolino, per me era come distrarmi, insomma, dalla mia vita difficile, dal momento che stavo vivendo, ed era come un fuggire proprio da questa responsabilità enorme, ma non era poi un fuggire da egoistico, insomma, ho cercato di non sentirmi in colpa nell'uscire, perché comunque mi accorgevo che una volta in cui io tornavo a casa trasmettevo poi alla bambina quel sorriso, quell'energia positiva che raccoglievo proprio insieme a queste persone. E ho capito quindi che dovevo andare avanti per quella strada. Poi in parallelo anche la bambina stava bene, guariva e si riprendeva in mano insomma la vita. Quando abbiamo fatto finalmente questo spettacolino, mi sono mancati, gli ho detto: ragazzi, lo rifacciamo, ma magari questa volta uniamo l'utile al dilettevole in un modo ancora più profondo, facciamolo per sostenere il reparto di oncomatologia pediatrica di Padova. E loro, diciamo che insomma, non avrei mai detto che fossero arrivati con me fino a qui, e sono orgogliosa di essere addirittura insomma qua oggi per testimoniare questa storia, e che è continuata e ha preso forma in vari modi, perché poi ognuna di queste persone ha trasmesso un proprio essere, una propria vitalità, tutto quello che magari aveva tenuto nascosto per anni l'ha potuto esprimere anche con il teatro, con la bravura anche nel cucire i costumi, nel fare le coreografie, nei balletti, nelle luci, nei suoni, nella musica, insomma in tante cose ci si è veramente messi in gioco tutto per il sorriso dei bambini che soffrono. E quindi da qua abbiamo poi deciso di creare un'associazione vera e propria e di continuare a sostenere in tutti i modi, nei vari modi che magari oggi affronteremo e vi descriveremo, appunto il reparto di oncomatologia di Padova, testimoniando la vita e i miracoli, perché bisogna crederci fino in fondo. È bello anche pensare che questa associazione sia nata proprio in seguito a una rivincita, a una vita. Insomma, spesso purtroppo le associazioni nascono proprio dopo un lutto. Noi, insomma, anche se cioè, noi siamo vicini comunque anche sicuramente anche alle famiglie che hanno avuto delle perdite, però continuiamo a sostenere la ricerca perché si continuano ad avere esempi come questo sempre di più, perché ci crediamo, perché ha fatto veramente passi da gigante. Poi ne parleremo. Ci crediamo profondamente. Sì, certo, ne parleremo. Ecco, io ho lasciato, non sono mai intervenuto, ho lasciato andare, che mi sembrava giusto, perché grazie, è la protagonista un po' di tutto, da qui è partito appunto tutto. E diciamo anche Veronica che il destino che questa sera ti ha portato qui, perché il 31 gennaio, che per te è una data appunto particolare, è casuale. Esatto. È la fatalità, è il destino che ti ha portato qui questa sera, proprio il 31 gennaio. Cioè, stanno arrivando messaggi a raffica, mi va via la pagina. Allora, questo gruppo cosa fa di preciso? L'ha appena spiegato Veronica. Complimenti, siete un esempio da seguire. Grazie. Grande. Grazie. Veronica, grandi genitori in fuga, un saluto a tutti dal sindaco dei cantieri. Un altro messaggio, semplicemente bravi. Bravi. Grazie. E poi un altro, l'ultimo messaggio che è arrivato, vai Veronica, con tante A. Parliamo un attimo del logo che vi accompagna, questo bellissimo logo colorato. E chi lo spiega com'è e com'è nato? Perché è stato fatto questo logo? Il nostro logo... Allora risponde Daniele. Il nostro logo è nato dopo varie prove che abbiamo fatto. A me piace così, a me piace colà. Noi siamo un gruppo dove parlare è diventato fondamentale, tutto va discusso, c'è comunque un direttivo che propone, che fa, però ognuno ci deve mettere del proprio, perché sennò quello che ognuno ha dentro non viene fuori fino in fondo, e questo per noi è molto importante. Quindi il logo è stato fatto, sì, è stato pensato da un amico che si è appoggiato a un grafico, che quindi ha scelto il font per la realizzazione della scritta. E dopodiché cosa facciamo? Cosa ci mettiamo? La cosa più simpatica e che accomunava tutti quanti è stata una famiglia stilizzata e una famiglia a colori, una famiglia che vede e vuole vedere la vita a colori. Vorrei dire che se per la scelta del modo in cui doveva essere scritto Genitori in Fuga ci abbiamo messo tanto, per la scelta della famiglia vista, vabbè, è andata bene a tutti. Quindi un qualcosa che ci ha accomunato fin da subito. E se volete andare a vedere com'è questo disegno, andate su cercare Genitori in Fuga, hanno anche un loro sito, lo ricordiamo anche, già che ci siamo. Vai Elena. www.genitoriinfuga.org oppure la nostra pagina Facebook che è Genitori in Fuga. Che poi lo ripeteremo alla fine, quindi là vedete questo simpaticissimo disegno colorato che è stato fatto. Mi chiedono quanti spettacoli avete fatto, ne parleremo dopo, vi darà la risposta qualcuno dei Genitori in Fuga. E poi non so chi sia di voi, ma qua mi scrivono: vai pistone. Oh, Paolo. Ricordi qua di pistone, sempre di teatro. Poi qua chiedono, ma comunque ne parleremo adesso, chi scrive la storia e come vi vengono in mente, ne parleremo anche di questo. Adesso volevo chiedere un'altra cosa, di due slogan che voi usate. Uno: non è una compagnia di attori, ma un gruppo che sta bene in compagnia, che rende bene l'idea. E poi: i genitori in fuga, uniti col cuore e l'anima verso lo stesso obiettivo. Chi ha creato questi slogan? Magnifici slogan. Non so chi li abbia creati, perché parlo come ultimo arrivato, uno tra gli ultimi arrivati, diciamo. Quello che mi è piaciuto subito è che mi hanno preso dentro, e sono stato preso dentro molto volentieri. Proprio dal primo, che non siamo una compagnia teatrante che va in giro, ma siamo un gruppo di amici che si diverte. Sta rispondendo Paolo, eh? Grazie Gil, mi ero dimenticato che ero io. e quindi questa cosa qua, sì, ci accomuna molto il fatto di, come diceva prima Daniele, che quando ci sono decisioni da prendere si prendono tutti insieme, e cerchiamo sempre di essere un gruppo, che è fondamentale al giorno d'oggi in qualsiasi situazione, sia lavorativa, sia amici, eccetera. Il fatto di poter parlare liberamente e confrontarci sempre, quello è una cosa che ci tocca e che vogliamo fare sempre. Per quanto riguarda chi li ha inventati, passo la parola alla mia amica Elena. Ti do una mano, Paolo, perché te vedo in fiamme, in confusione. Paolo è entrato da 3 anni nel gruppo, esatto. Quindi non dal 2013 come quasi tutti noi, la maggior parte di noi. Contate che siamo circa 25-30 persone attive. Lo slogan: non siamo una compagnia di attori, ma un gruppo di amici che sta bene in compagnia, è nato da un nostro socio, diciamo anche nome, Damiano, che ha voluto proprio sottolineare il fatto che, come dicevamo prima, stiamo bene in compagnia. Cioè noi proprio quando facciamo qualcosa, che sia il teatro o le altre attività che facciamo, perché il teatro è una delle attività che noi facciamo, ci divertiamo e sappiamo che quando ci divertiamo noi, poi facciamo divertire anche gli altri. L'altro slogan parla di cuore invece, perché vi assicuro, io sono dentro dall'inizio, vi assicuro che in tutti questi anni ogni giovedì sera noi ci troviamo. Oggi è giovedì, tra l'altro non abbiamo fatto le prove, ragazzi, è un casino. Colpa mia, siamo in trio. Colpa mia. Meno male che è colpa di qualcuno, di solito è colpa di Renato, però stavolta è colpa tua. Ogni giovedì ci troviamo e abbiamo tutti una famiglia, abbiamo tutti un lavoro, abbiamo tutte delle difficoltà come tutte le persone che conosciamo, esatto. Però quando ci mettiamo in gioco a fare queste cose, il primo organo è il cuore. Noi facciamo quello che facciamo perché ci crediamo, e se ci credi ci riesci è un'altra cosa che è venuta fuori stasera, ed è una cosa che noi ci ripetiamo molto spesso. Ogni nostro spettacolo alla fine ha uno slogan, quello di quest'anno è "se ci credi ci riesci". Ecco, quindi ne ho uno in più da aggiungere. Perfetto. Visto che me lo chiedono, magari lo possiamo dire anche subito, fa sempre parte delle prossime domande, ma mi chiedono dove sarà il prossimo spettacolo. Risponde Cristina. Sì, sono io. Il prossimo spettacolo è qui nei prossimi giorni, è il 3 marzo presso il palazzetto di Ronchi, nella zona di Casalserugo. E appunto proponiamo "Se ci credi, ci riesci". Poi super, ci sarà la Cristina, ma la Cristina mi cade proprio sull'ultima commedia. Vai, regista. Allora, il titolo... Volevo farmi richiamare. Il titolo è "Supereroi nel paese di ci credi". Ecco, questo è il titolo esatto. Cristina, mi dispiace. Non ho studiato bene la parte. E sarebbe il terzo questo spettacolo? Ne abbiamo sei di spettacoli. Sono indietro. Sei indietro. Ho studiato, ma sono indietro. Allora, merito un 5. La colpa di Favarato, perché lui è dentro da 3 anni, quindi lui ha fatto 3 spettacoli. Ti ha detto solo dove c'era lui. Ecco, dovete mettere Paolo Favarato come responsabile del sito internet. Apposta. Credo che lo metteremo come mascotte. No, io pensavo addetto all'acqua naturale. Ecco, proprio non generale. Naturale. Allora, ragazzi, io direi di fare una pausa musicale e poi torneremo qui in diretta a parlare ancora di Genitori in Fuga. È una canzone dei Neri per Caso che si chiama "Quando". Ho preso spunto dal vostro profilo Facebook, dove ci sono delle immagini che passano con questa canzone. E penso che sia proprio adattissima. Quando saremo grandi e capiremo un po' di più tutti. Saremo vicini e mai nemici. Quando saremo ricchi di sentimenti e di umanità, sapremo vincere o perdere, ma con umiltà. Quando saremo più sani, passato sarà, tutti fratelli nell'anima, liberi, e vedrai così. Male, c'è poco da pregare. capiremo saremo vicini, vicini, vicini, vicini, sì. Mai, oh mai, nemici mai. Quando saremo più saggi, oh, quando questo Radio Cooperativa ti tiene compagnia 24 ore su 24, con trasmissioni d'attualità, di cultura e di impegno sociale. Rieccoci ritornati in diretta dallo studio. Questa sera sono qui con un gruppo numeroso dei Genitori in Fuga. Siamo qui per parlare di teatro, di solidarietà e, come abbiamo detto, di amore e di tante altre cose. Prima di ripartire, altri due messaggi. Penso sia riferito a te, uno Daniele. No, stavolta non siamo indietro. Siamo molto avanti, siamo arrivati persino alla radio. Esatto. Questo è Siamo in Drio, è l'incitamento, diciamo, molto forzato che io, che mi occupo un po' del coordinamento delle scene insieme a Elena, dico, perché secondo me non siamo mai pronti per salire sul palco. E quindi è diventato un tormentone, l'abbiamo fatto diventare un tormentone, però ha il suo effetto, perché cioè, qualcuno sì, ancora mi crede. Poi da Francesco, figlio di Damiano, però non ha scritto altro, non so cosa vuoi, forse poi ciao. I nostri figli ci seguono sempre, anche ecco, via radio. Sono i nostri fan. E poi mi raccomando, ragazzi, non sfinite il conduttore e il conduttore. Mi raccomando. Sempre Beppi. No, guarda, Beppi, siamo all'inizio. Per il momento va tutto bene, non mi hanno ancora sfinito. Però vediamo un po'. Perché, non so, il Paolo mi sa che è quello che mi sfinirà di più poi alla fine. Non so, ho questa idea. No, dai, siamo tranquilli. Tornando un po' agli spettacoli, che io inizialmente pensavo fossero solo tre. Invece, giustamente, voi mi avete corretto, mi hanno detto, no, guarda che non hai studiato bene, perché sono sei. Riepilogando quando sono stati fatti e come li avete chiamati. Il primo spettacolo è appunto quello del 2013-2014, si chiama Il viaggio intorno al mondo. Quindi quello appena fondato l'associazione. Sì, sì. E quindi avevamo strutturato un po' il viaggio di questa coppia di neosposi che andavano in viaggio di nozze e toccavano vari continenti, però poi alla fine la felicità e l'amore, il loro bisogno, quello che poteva soddisfare tutto quello che loro cercavano, era a casa. Brava Cri, brava, bravissima. Stavolta non ha sbagliato. Mi sono ricordata bene. Non sono dovuto intervenire per correggerla, quindi molto ma molto bene. Dai. Promossa. Beh, promossa, adesso vediamo. Aspettiamo un attimo. Poi abbiamo fatto due spettacoli che il nostro personaggio principale era un genio. Quindi con tutto una preparazione. Una preparazione di questo genio veramente molto particolare. Aveva era anche blu, il tappeto volante. Esatto, ecco, meraviglioso. Era magico. Era magico. E si chiamava il primo di queste due serie Un desiderio debba bastare. che quindi lui faceva un po' la parodia, che non poteva esprimere tre desideri, ma solo uno. Quindi immaginatevi. C'è la crisi, ragazzi. L'ha detto come fosse in teatro. Esatto, c'è la crisi. E quindi immaginatevi cosa poteva succedere in questo piccolo paese dove questi sempre neosposini dovevano decidere aiutandosi, confidandosi con i compaesani. E alla fine cosa hanno scelto? Vi ricordate, ragazzi, cosa hanno scelto? Ma no, era la felicità del loro bambino, la felicità di crescere la famiglia. Esattamente, esattamente. Poi questo genio ha detto, vabbè, facciamo un altro spettacolo e lo chiamiamo Tutti per Uno. Chissà cosa vorrà dire mai. Che non e non questo fa la forza. Me lo ricordo. Te lo ricordi, Paolo? Sì, Pistone. Perché Pistone, vedi che è venuto fuori il Pistone. E allora questo lo racconti tu, Paolo. Oh, che bellezza. Pistone, allora racconto solo di me, però, perché ero la star. No, la non star. È vero. Anche quella volta. Non è vero. Mi viene in ma mente ti ricordi cosa brodo. Ti hai messo in testa? La star. Allora, qua si sta divagando, quindi io opterei subito per il quarto spettacolo, quinto, sesto, settimo. Il quarto? Il salto alla della liceo. Quaglia. Hai visto che bravo che il sono? Il salto della quaglia. Quello ci manca, quello ci manca. Alla ricerca di... Otto Kraffen. Beh, facciamo parlare il protagonista. Otto Kraffen. Buonasera a tutti. Io essere famoso scienziato di Germania, dottor Otto Kraffen con crema. Io essere la tua assistente, ma voilà che va bien, mais oui. Bonsoir à tout le monde. Laureata, dottoressa. Oui, à la Sorbonne de Paris. La. Ci siamo. Beh, secondo me, Gilles, quando ci hai detto state pure naturali, adesso ti mordi la lingua. No, assolutamente no. Assolutamente no. Poi, ragazzi, c'est la vie. C'est la vie. Il nostro capolavoro. Sì. La critica internazionale sta ancora esprimendo pareri. Ma poi voglio dire, ogni spettacolo in una lingua diversa, come notate. Sì, tedesco, francese, anche spagnolo dentro C'est la vie. Ricordate una scena, si andava in Spagna. Hola, chico! Con un bellissimo furgone Volkswagen. Tutto fatto in casa, questo è il bello nostro, che noi facciamo tutto fatto in casa. Manine d'Oro è la persona che si occupa della scenografia, di realizzare questi bellissimi sponi. Io non voglio neanche pensare quante notti insonne ha passato Manine d'Oro, perché ha riprodotto il furgone su un foglio di carta millimetrata, sì? Dopodiche ha riprodotto, dilatando le misure, fino a fare da un foglio a 4 a un pannello di compensato che sarà stato un 3x2. Quindi lui ha calcolato perfettamente la proporzione dal millimetro ai 20 centimetri. Beh, e l'ultima volta ci ha fatto degli alberi fantastici. No, beh, piano. E lì c'era anche la mano di qualcun altro. Siamo arrivati? All'ultimo, sì, ma supereroi. C'è la V, non era neanche raccontato la storia, ci ho messo 6 mesi a scriverlo. Allora vai avanti, non essere timido. Allora, vai, Cri, vai. Ti devi meritare il 6. Dunque, sono 6 spettacoli. Il 6 arriva solo con l'esposizione di tutti. Dai che ti do una mano. Vi sto facendo segno perché qua non ce la faccio, mi stanno arrivando una montagna di messaggi. Ma noi siamo abituati. Siamo social. Dai, ti do una mano, Cri. Dimmi. Per la C'est la vie. Dimmi. Comincia tutto con C'est la vie. Con la nursery. Ti ricordi la nursery? Già rimossa, no. Quindi, 3 bambini che ero un po' traumatizzata dal figlio. Non mi ricordo chi faceva la mamma. Non mi ricordo. La mamma casualmente era Cristina. Ecco. E il papino? Chi era il papino? Pistone. ero io, sì, il papà ero io. Paolo. Ma io sono stata traumatizzata da nostro figlio. Ecco. Esatto. Adesso inizia a venire fuori qua. Sì, arrivano i messaggi. Perché più che altro nostro figlio nell'ultimo spettacolo diventa mio papà. Devo ancora capire come c'è un po' di confusione. c'è un po' di confusione. Siamo arrivati alla fine, Cristina, giusto? Ne abbiamo... Sì, ne manca uno. Sì, con Sala B comunque si comincia con la storia di questa nursery con i tre bambini che vengono poi portati, un bambino viene portato a casa, poi cresce, va a scuola, si innamora e si ritrova anche lui ad essere in attesa di una nuova vita. Quindi è il ciclo della vita, in sostanza, Sala B. E poi all'ultimo, quello attuale, supereroi nel paese di Ci Credi. Che non svegliamo perché venite a vederlo, sì, a Ronchi. Esatto, qui si chiude la bocca. Zip! Il 6 l'ha guadagnato? Sì, il 6 l'ha guadagnato, anche qualcosina di più, dai. Quindi, grazie! Quindi in pratica più di uno spettacolo all'anno, alla fine. Qualcosina in più. Noi ne scriviamo uno all'anno e cominciamo da dicembre a proporlo ai vari comuni che ci ospitano e andiamo avanti più o meno da dicembre fino a maggio, circa maggio-giugno, proponendo questo spettacolo. Nel frattempo scriviamo quello dell'anno successivo, quindi ne mettiamo in scena uno e ne scriviamo uno quello successivo, in contemporanea. Quindi, impegnatissimi sempre tutto l'anno. Sì. Assolutamente sì. Assolutamente e credo sì. Che ogni spettacolo alla fine abbia una sua morale. Esattamente, esatto. Mi hai anticipato, era proprio quello che volevo dire. Noi nasciamo come un gruppo che fa spettacoli per bambini, però quello che ci piace pensare è pensare alle famiglie intere. Ci piace pensare che se viene uno spettacolo si deve divertire la mamma, il papà, la nonna, si devono divertire tutti, quindi cerchiamo di farsi una storia che vada bene per i bambini, che però contenga degli aneddoti, delle battute che fa ridere anche gli adulti, e non deve essere uno spettacolo fine a se stesso, deve e vogliamo che continui a portare un messaggio. Un messaggio non necessariamente di speranza, ma comunque un messaggio importante, un messaggio formativo per i bambini che vengono a vederci e per i nostri bambini, perché quello che noi facciamo perché crediamo e lo facciamo come un grande esempio che vogliamo dare ai nostri bambini e a tutti i loro amici che ci riconoscono, si sentono parte ormai di questo gruppo di matti, perché ad ogni spettacolo prima di andare in scena il palco è pieno di bambini, alla fine i bambini salgono, dobbiamo salire, adesso ci fate salire, quindi è bellissimo anche per voi, no? È bellissimo per noi, è bello perché a loro sembra un gioco, però si stanno abituando a fare un volano che deve prendere dentro tutti quanti, prendere, coinvolgere più persone possibili nello scopo. Ha parlato Daniele. Parla sempre un po' troppo. Leggo un po' di messaggi e poi torno a Veronica. Stasera purtroppo niente riunione, ma siamo in radio. Che grande occasione. Grazie Radio Cooperativa per la serata radioattiva. Saluti da Cinzia e Vania del merchandising. Sì, perché noi, perché facciamo questi spettacoli e tutte le nostre attività? Li facciamo per raccogliere dei fondi che poi utilizziamo per perseguire dei progetti a vantaggio dei bambini ricoverati nell'oncomatologia pediatrica. Allora abbiamo un settore marketing dove le due nostre donne marketing, appunto Vania e Cinzia, vendono i ghiaccioli agli eschimesi. Non è vero. Beh, allora sono brave se ci riescono. I nostri gadget e facendoci, portando concretezza ai nostri progetti. Sì, ma quelli che ti abbiamo portato te li abbiamo regalati, tranquillo, non vogliamo niente. Hai capito Cinzia, smettila. Grazie Daniele, perché dovete sapere appunto che mi hanno fatto questa grandissima sorpresa, dopo faremo le foto e mi metterò anche la maglietta, tassativamente me la uno metterò di noi. La maglietta dei genitori in Fuglia, una taglia S. Grazie Paolo. No, era come speaker. Poi la prossima uscita in reparto quando sarà? Monica, perché appunto voi fate, visto che ci siamo, sono argomenti che dovevamo parlare anche dopo, ma visto che ci siamo ne parliamo pure, perché voi non fate solo teatro, ma entrate a dar vita, tra virgolette, a questi bambini, portare gioia, un po' di sorriso a questi bambini e genitori dentro il reparto. Chi risponde? Rispondo io, Veronica. La prossima uscita sarà sicuramente a febbraio. Comunque siamo anche appena stati noi in reparto a consegnare i nostri giochi che abbiamo finalmente raccolto dopo tanta fatica, perché insomma era da un po' di tempo che avevamo questo sogno, questo obiettivo, e l'abbiamo fatto proprio sabato scorso. È stato bellissimo perché alcuni di noi sono entrati in reparto e i bambini non vedevano l'ora, e vederli sorridere e poi anche aprire i giochi e iniziare a giocare è stato veramente bello. È bello ogni volta che andiamo in reparto. Io insomma ci vado, porto i ragazzi in modo ciclico, insomma non c'è una continuità, c'è sempre un giro di persone che viene, e lo faccio prima di tutto perché io mi sento di andare, vado anche perché voglio ringraziare comunque quello che a me è successo di bello, mi sento come in chiesa quando vado là dentro. E poi piano in chiesa, no, però rendi l'idea, ecco, sì, ho reso l'idea, certo, sì. E ovviamente poi mi affido anch'io alle persone che vengono con me, che sono le persone del gruppo, che portano la loro abilità, la loro voglia di fare. Allora chi la musica, chi i lavoretti con la costellatrice, con il DAS, con altri materiali, anche abbiamo fatto anche gli squishy con la farina di carbonato per dargli un po' di gioia con questi palloncini antistress. Quindi la prossima volta andremo a febbraio. Solitamente le uscite vengono fatte una volta al mese, andiamo la domenica mattina perché è quello il momento in cui non c'è quasi nessuno. Poi diciamo che andiamo anche adesso perché evitiamo i periodi di alta stagione, tra virgolette, quelli delle feste dove ci sono bene per loro, comunque tante altre associazioni che bombardano tra virgolette un pochino il reparto, e quindi andiamo anche nei periodi un po' più tranquilli, in modo da mantenere a loro un po' di vivacità, insomma di serenità in più. Regaliamo attimi di gioia, di spensieratezza, attimi che sono comunque che preziosi, sono attimi che mi auguro rimangano comunque nel loro cuore il più possibile, perché permettono a loro di respirare un po' di gioia. È stato bello, posso dirlo, è successo a novembre quando con due persone del gruppo, tre, si è portato la musica in reparto. Diciamo, musica fisicamente proprio, scusa se ti interrompo. Sì, e quindi hanno suonato due strumenti e niente da togliere poi a tutte le altre uscite, ma in quel momento in cui mi sono distratta e mi sono rigirata, ho visto la sala ricreativa, tra virgolette, quella del reparto. Sembrava quasi un locale qualsiasi, come quasi un bar dove c'erano i bambini che con gli strumenti partecipavano e accompagnavano i nostri Cristiano e Mauro e la Elena, e i papà che battevano le mani, i piedi, addirittura si sono messi a ballare. E in quel momento mi si è fermata come l'immagine. E ho pensato magari fosse sempre così. Era la terapia più bella in quel momento là. Quindi quando andiamo là, per me è solo portare gioia che va oltre le medicine e le terapie. E quello, se possiamo farlo finché possiamo, guarda, lo facciamo, perché ci crediamo. Quindi certo, certo che sì. Poi con l'occasione sono stati portati i bambini che hanno collaborato nel suonare degli strumenti a percussione, e è bastato che uno dei pensatori di questa nuova attività, perché era la prima volta che la facevamo, andasse in un negozio in un negozio a chiedere, scusate, avrei bisogno di questo tipo di strumento percussione, cosette piccole, robe che comunque hanno un costo non indifferente, e gli hanno chiesto ma cosa devi fare, sono per dei bambini, andiamo così, facciamo degli spettacoli, ve li regaliamo. Come ve li regaliamo? C'era stato un conto minimo di 150 euro se non ricordo male. No, se è per i bambini, se è per quello che voi mi stai dicendo che hai intenzione di andare a fare, noi ve li regaliamo senza batter ciglio. Questo ci dà una forza impressionante. Ci dà sempre più forza. Noi perché abbiamo... vedere gente che racconti storie così e fai vedere il concreto e non l'astratto, nel senso quello che facciamo lo facciamo, e ritorniamo sempre al discorso col cuore, e si vedono gli effetti, vedi che gente ti ferma e vuole darti una mano. Non è una superficialità. Grazie. Sì, sì. Cioè, il chiedere a volte è superfluo. Cioè, nel momento in cui gli è stato esposto la cosa, non gli è stato chiesto ci aiutate, ci date, uno ce lo date, gli altri li acquistiamo. No, cioè senza chiedere ci è stato detto subito ve li regaliamo. Sì. È veramente... finché non ti trovi in mezzo a questa cosa, non ti rendi conto di quante persone stanno solo aspettando di essere tirate dentro in questo volano. E noi ce ne stiamo accorgendo. Ci sono tanti sponsor che ci hanno aiutato e che continuano ad aiutarci, e speriamo, cosa dite, che abbiano ancora voglia di... Sì, certo. Penso proprio di sì, Daniele. Io volevo fare una domanda a Veronica. Viene spontaneo da parte di tutti pensare a dare il massimo, ovviamente, ai bambini, appunto in questi casi, ma spesso ci si dimentica che quando entra in casa una malattia, alla fine coinvolge tutti, e con tutti intendo i genitori. Tu sicuramente hai fatto questo percorso, e ne stiamo parlando di quanto importante sia per te, no? Quindi a questi genitori, visto anche la tua esperienza, e che la speranza, e i fatti lo dimostrano, che la speranza deve essere sempre viva, dopo ne parleremo anche perché, tu cosa ti senti di dire a questi genitori? Allora, io ai genitori che stanno vivendo una malattia, insomma un problema come effettivamente può essere una malattia, che sia oncoematologica o di un altro tipo comunque, io diciamo che non ho proprio un consiglio vero e proprio, perché vedi, io quando mi sono trovata dentro ho preso tutto quello che c'era fuori e l'ho incanalato dentro di me, ho preso tutte le energie possibili nelle sue forme diverse, e la differenza però poi l'ho fatta io da sola, perché non mi vergogno a dirlo, io comunque ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicino, però la differenza l'ho fatta purtroppo, cioè l'ho fatta da sola, è così. E quindi io auguro solo che il genitore che si trova in un percorso difficile come quello che è capitato a me trovi quell'istinto di sopravvivenza che alla fine abbiamo tutti innato e che magari non sai neanche di avere, ma poi ti esce, perché nel momento in cui ti trovi in difficoltà ti viene anche spontaneo. Molte volte le persone mi hanno detto ma tu sei forte, ma solo la mamma, cioè è vero che non è scontato niente, però ho fatto quello che mi diceva il cuore nel mio modo migliore, e così ha fatto mio marito e così ha fatto anche mio figlio, il fratello di Angelica, l'abbiamo fatto insieme. E io auguro comunque anche tanta forza all'interno del nucleo familiare, il sostegno sì degli amici e anche dei parenti, questo sì, l'aiuto, non vergognatevi a chiedere ho bisogno di una mano, chiedete aiuto, perché è adesso che hai bisogno, non aspettare, non c'è un altro momento, è adesso. Quindi anche questo ho imparato, e anche di non aspettarsi niente, di non crearsi delle illusioni, ma quello non mi ha chiamato, quello non mi ha chiesto, vuol dire che no, ognuno ha il suo modo di aiutare, quindi cercare di essere forti anche in questo, andando avanti per la propria strada e sempre mirando verso la salute del figlio, sempre su quello, cioè dove poi il resto poi non conta, andare avanti dritto all'obiettivo senza fermarsi per le piccole cose, ecco, questo. Salutiamo anche Michele. Certo, Michele, mio marito, che tra l'altro è il donatore di midollo della bambina di Angelica. Che Angelica quanti anni ha? Adesso ha 7 anni. E tutta una vita davanti. Esatto, quindi... Per quello dico. Sì, è una roccia, è una guerriera e... Per fortuna assomiglia alla mamma, non assomiglia al papà. Volevo rassicurare il pubblico. Allora ragazzi, facciamo una pausa musicale e poi ritorniamo in studio. Ok, grazie. Hope when you take that jump, you don't feel the fall. You built a wall. Hope when the crowd screams out, you're screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. Hope that you fall in love and it hurts so bad. When the moment comes, you'll say, I live. Hope that you spend your days, but they all add up. And when that sun goes down, hope you raise your cup. Oh, I wish that I could witness all your joy and all your pain, but until my moment comes, I'll say, I swear I live. Rock Wave con Alberto Prisco, tutti i mercoledì dalle ore 19 alle 20:30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Rieccoci tornati in diretta con i genitori in fuga. Come promesso, altri due o tre messaggi. Complimenti veramente a tutti, da chi lavora dietro le quinte, da chi si mette in gioco, da chi studia le coreografie, dai montatori, da chi scrive i testi, insomma, bravissimi, ma soprattutto per lo scopo veramente nobile. Michele. Poi un altro messaggio, questo lo devo aprire così. Allora, vedere i bambini sorridere, anche quando la situazione non è per niente facile, ci ripaga di molte notti passate a preparare, scrivere, provare, caricare, eccetera. Qui non è firmato e poi qua abbiamo una domanda, e a pericena? Bella domanda. E a peripranzo? Io rispondo così. Papà e mamma GIF? Sì, sì, siamo noi. I GIF siamo noi. Ah, siete voi i GIF. Genitori in fuga. Ah, ecco, giusto. GIF, GIF. Bello, bello, l'acronimo, GIF. Devo imparare anche questo. Siete il nostro esempio perché ci insegnate ad affrontare le difficoltà con il sorriso. Continuate così. Matilde, Sara, ma di sicuro è il pensiero di tutti i figli di GIF. Genitori in fuga. Che i nostri figli, per prenderci in giro, dicono... I figli in fuga vorrebbero loro. Posso dire una cosa solo a queste due che hanno scritto? Andate a letto che è tardi, che domani mattina dovete andare a scuola. Non usare la radio per i tuoi messaggi. Il messaggio personali. È chiaro. Poi j'adore. No, yeah! J'adore. Ah, lo devo dire meglio. J'adore. Bravo, con sei la voce assunto. Tenebrosa, con la voce tenebrosa. E poi ringraziamo il gruppo Montatori. Ovviamente. Montatori che ad ogni spettacolo partono la sera prima a caricare furgoni, macchine, di tutto, per dopo montare tutto il giorno là. E che per fortuna abbiamo un bellissimo furgone giallo che non ce l'ha nessuno. Meraviglioso. Cioè non lo voleva nessuno, forse no. Dai, sta scherzando. No, si guida benissimo il furgone giallo. Maleggevole. Maleggevole. Vado avanti ragazzi perché ho tantissime cose da chiedervi, il tempo qua si accorcia sempre di più. Io voglio parlare, perché penso sia importantissimo, parlare anche di quello che ricevete dalle persone. Non parlo solo di donazioni, parlo anche a livello morale, di cosa vi scrivono. Perché il 17 febbraio 2016 ricevete una lettera di ringraziamento dalla Fondazione Città della Speranza. Gentili signori, riceviamo la donazione di 810 euro, frutto della raccolta fatta in occasione dello spettacolo Tutti per Uno. Ringraziamo quindi voi e tutti coloro che hanno reso possibile l'evento e che si sono attivati per la buona riuscita della manifestazione, per la grande generosità dimostrata. Grazie anche al vostro aiuto, la Fondazione ha potuto completare la costruzione del nuovo Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, il cui obiettivo è quello di promuovere l'attività di ricerca nel campo delle patologie pediatriche, e potrà altresì a continuare a dare il suo sostegno alla clinica di oncoematologia pediatrica di Padova nelle sue necessità. E qui è molto bello, conclude dicendo grazie da tutti noi della Città della Speranza, ma soprattutto dai nostri bambini. Ecco, io ho voluto leggere perché devo dare l'idea di cosa state facendo. Penso che sia una gratificazione per voi enorme. Questa lettera mi ha fatto venire in mente un'occasione speciale che abbiamo avuto qualche anno fa. Siamo andati a fare uno spettacolo in ospedale, tutti quanti, quindi eravamo più di 20. Pazzi incoscienti, direi, quasi. Pazzi incoscienti. Non è semplicissimo, non è stato semplicissimo per tutti entrare ed esibirsi davanti ad un pubblico così speciale. Davanti a te, in quel caso, ci sono bambini... con la mascherina, bambini collegati a tubetti e quant'altro, tenuti in braccio da genitori e molte volte fanno fatica ad esprimere le emozioni attraverso le espressioni facciali. E noi siamo abituati ad un pubblico sanissimo, con bambini che saltano, che ci guardano, che reagiscono alle nostre battute, e noi interagiamo anche durante i nostri spettacoli con il pubblico, soprattutto con i bambini, e quindi aver davanti invece delle persone che stanno visibilmente soffrendo è stato molto difficile. Ma quando abbiamo finito il nostro spettacolo e siamo usciti da lì, l'energia, io penso di parlare non solo a titolo personale ma anche di quelli che c'erano, l'energia che abbiamo ricevuto è stata 1000 volte quella che riceviamo con un pubblico normale, diciamo così. Noi diamo, ci ringraziano perché diamo, ma siamo i primi a dover ringraziare, perché noi prendiamo tantissimo. Ogni volta che finiamo lo spettacolo, per una settimana abbiamo il sorriso stampato in faccia. Speriamo che ce l'abbia anche chi ci viene a vedere. Beh, lo avete anche stasera comunque. Prima di passare alla prossima domanda, qua mi scrivono: sì, il furgone giallo è mitico. È quello che parlavi prima, no, Daniele? Sì. Ecco. Sì, perché dietro ad ogni spettacolo c'è un lavoro importante. Noi non ci affidiamo a service o a servizi a pagamento. Abbiamo una parte di strumentazione, ce la siamo acquistata un po' alla volta, un po' ci è stata regalata, quindi sempre da sponsor. E montare tutto quanto, montare a volte anche il palco, esatto. Montare il palco, montare le scenografie, montare il mixer, luci, fari. È un impegno, quindi la squadra montatori che veniva salutata prima in occasione degli spettacoli è veramente preziosa, perché veramente lavoriamo tanto, però lavoriamo col sorriso, sempre col sorriso. Certo. Si prende anche tanto in giro, si ride tanto e ci vuole. Certo. Lavoriamo col sorriso e con una fetta di salame davanti. Certo. E un bicchiere di vino. Daniele ha detto: non dovevi dirlo. È caduto ho svelato tutto. Il segreto. Perché però volta... qua non c'è stasera. Il salame no. Anche se qualcuno... Io l'avevo proposto. Anche con la fettatrice, che ci sta sempre nel furgone. Sì. Maledetti alieni la pagheranno cara. non possiamo svelare. Elisabetta! Ciao Betta! Non sei a letto a dormire? Immagino che farà parte del prossimo spettacolo. Sì, sì. È una battuta che io e Elena ci siamo sfiniti per fargliela dire in un determinato modo, e alla fine fai quello che vuoi. E comunque è meglio la sua versione. Sì. Alla ragazzi, fine qua non c'è fine ai messaggi. Incuriosito, ho sfogliato le foto del vostro sito. Complimenti, Marco. Grazie Marco, vienici a trovare. Ti aspettiamo. Quando vuoi, siamo qua. Esatto, un'altra cosa che volevo dire. Dimmi. Io, visto che parlo sempre, quindi, è che siamo partiti con un gruppo di genitori che, come diceva Veronica, avevamo tutti i bambini all'ultimo anno di materna con questa esperienza. Però siamo cresciuti. Mi sa che ogni anno negli ultimi anni abbiamo avuto delle persone che ci hanno chiesto: avete bisogno di una mano? E noi, da pazzi incoscienti quali siamo, tutte le volte li abbiamo messi sul palco, cioè. o nei laboratori. E tutti quanti si sono divertiti, e questo è importante. Che noi siamo aperti. E poi, oltretutto, il teatro, anche se fatto a livello amatoriale così, però aiuta sì, anche le persone timide a vincere queste paure. No? Maledetti alieni, qualche anno fa non sarebbe mai stato detto mai sopra un palco. mai, è vero. Leggo l'ultimo, poi passo al prossimo argomento. Sono stati proprio bravi a far entrare tutti quella volta in reparto. Sicuramente è stato anche merito del genio che ha esaudito un nostro desiderio. A quello spettacolo c'era anche lui. Sì, allora io parlo un attimo al genio. Vai in letto anche a te, metti in letto a Caitosi per piacere. Genio, sei proprio un genio. Sgamato subito. Comunque, da queste vostre esperienze, poi, che tutto è partito un po' dal nulla, la tua volontà poi a creare questa associazione e poi tutto quello che ne è seguito, nascono appunto anche delle collaborazioni. E sto parlando della collaborazione con la Unlus di Martellago, Il sorriso di Giovanni. che è stata presentata poi questa bella simbiosi da un giornalista che si chiama Nicola Stievano e l'ha presentata così: il gemellaggio tra le due associazioni dei genitori è il frutto di percorsi che si intrecciano nei reparti dell'oncoematologia pediatrica di Padova, uniti da ferite profonde che non scoraggiano ma diventano spirito di rinascita e di condivisioni con altri genitori, mamme e papà che si uniscono per fare di più e meglio, trovando la forza di trasformare il dolore in speranza e solidarietà. Questo, cioè, ragazzi, io ho trovato, non avevo mai approfondito questo argomento, e fare radio e andare a, come posso dire, a cercare le parole con chi collabora, eccetera, eccetera, io sto scoprendo delle cose straordinarie, come le parole che trovo che queste persone vi dedicano sono di una profondità immensa. Perché hanno capito che siamo noi, perché noi siamo così. Bravo Paolo, proprio questo. E tra l'altro siamo genitori che parlano a genitori. Non tutti noi abbiamo una storia di sofferenza così grande a casa, ma quando siamo davanti a genitori che soffrono così tanto, ci mettiamo al loro livello, non usiamo compassione, ci sediamo di fianco. Noi facciamo una cosa, loro ne fanno un'altra, loro seguono i bambini da vicino, noi invece cerchiamo di seguirli in un'altra maniera. Facciamo quello che possiamo. Certo. Posso anche aggiungere però che non tutti di noi siamo genitori, però sono persone che hanno una sensibilità talmente forte, talmente profonda, che non hanno nulla da dire. Non posso farne parte, no, assolutamente. Ognuno mette il proprio, ognuno è un valore aggiunto. Bravo. Dopo posso anche dire che molto spesso, come prima si diceva, troviamo persone che ci aiutano. Troviamo persone che ci aiutano, perché comunque questo tipo di beneficenza fa bene e crea altra beneficenza, perché il bene poi genera altrettanto bene e quindi diventa una catena positiva che si può, quindi... L'ha detto quello che volevo che dicessi, il bene che fa del bene. questo è un altro motto. E per noi quando è contento, guarda... Daniele, sono contenti tutti. Guarda che questa te la rubano per una pubblicità in TV, Il bene che fa del bene. Sì, che genera bene. È che siamo contagiosi. Sì, esatto. Nel senso che siamo ancora malati. Esatto. No, un'altra cosa che volevo dire è che un'esperienza di una storia che non è finita bene. Un papà di un bambino che purtroppo non ce l'ha fatta ha detto a uno di noi: io finché non ci sono cascato in mezzo a tutto questo non avrei mai pensato che c'è una realtà come la vostra che fa, e per me voi che lo fate senza averlo vissuto avete una marcia in più. Non si tratta di una marcia in più, si tratta di persone che cercano di immedesimarsi nella sofferenza e capiscono che un sorriso non costa niente e fa tanto. Sembra banale detto così, ma noi lo viviamo, l'abbiamo vissuto ad ogni spettacolo e dà tanto. Elena diceva giustamente: siamo noi che rubiamo e diamo con molto più slancio. Robin Hood, siamo i Robin Hood. No, siamo spettacolo. Oh, ma sai che sei tanto profondo. Vedi quante cose vengono fuori. Segna, prossimo titolo. Slogan, titoli, bene. Non è il genio che ha scritto Monelli, sono stata io, Chiara. Arca! Bella Chiaretta. Ce l'ha fatta Chiara. Brava Chiaretta, ti hanno mollato dal lavoro, bene. Forza GIF, saluti dall'Airone Burlone. Esatto, lei. No, ero io l'Airone Burlone. Ti saluti da sola? Ti sei iscritto? Abbiamo scoperto. Ragazzi, promesso, non sono stata io. Secondo me sei per la Chiara. La commissione. Correggimi se sbaglio, Veronica. Il 6 gennaio 2017 è un giorno particolare perché durante la partecipazione dei genitori in fuga alla festa della Befana sale sul palco la piccola Angelica. Sì, è vero. E ci sono anche Michela e Veronica? Esatto, Angelica ha fatto anche un balletto con alcune bambine, figlie dei genitori in fuga. E io poi mi ricordo che insomma abbiamo fatto anche un discorso in cui parlavo proprio un po' di quello che ho detto anche questa sera. L'ho fatto al pubblico presente dicendo non avrei mai pensato di trovare comunque una forza così grande per arrivare fino a qui. E poi Angelica ci teneva tanto perché lei adora i genitori in fuga. Ecco, diciamo che tenere distante dal palco Angelica non è tra semplice. Tra l'altro, non è semplice. No. È un animale da palcoscenico. Allora lei, vabbè, tra l'altro alle ultime prove faceva anche la dedica, vi scriveva anche genitori in fuga, io vi voglio bene, mi chiede sempre insomma di loro, lei li considera, ci considera come qualcosa, un'entità, esatto, che è una grande famiglia, questa entità diciamo che l'ha salvata, perché lei ha attribuito a noi proprio... diciamo questa caratteristica positiva. Noi facciamo del bene per i bambini che hanno una malattia oncomatologica come quella che è capitata a lei, e quindi di conseguenza siamo entrati dentro questo suo siamo come i medici, sì. Secondo lei, insomma, quindi... Ci fai santini fra poco. Sì, esatto. Cioè... Da mettere sul banchetto, Cinzia. Quindi... Con un unicorno? Poi ogni tanto mi rubava il telefono, l'anno scorso mandava gli audio ai genitori in fuga. Perché è una e quindi già esperta anche di cellulare ormai, come tanti altri diciamo bambini. Che, esatto, insomma, cerco di stare attenta, ma 7 anni dai, anche abbastanza, anche sveglia, perché anche gli altri... L'ho già detto, quanti, somiglia alla mamma. Beh, somiglia alla mamma, sì, l'ha detto prima Daniele, quindi è un riflesso. Ciao Michele. Ciao Michele. Senti, io penso che adesso anche con gli anni, col passare del tempo, eccetera, si sente, vi appassionate sempre di più di questa cosa, ma ci vuole tempo, ci vuole preparazione, ci vuole competenza. C'è qualcuno che vi prepara di fuori del vostro gruppo? No. Siamo noi che ci autoprepariamo. Bravissimi. Perché sì, ci guardiamo, ci imponiamo di guardarci. Impariamo l'uno con l'altro. Ci diamo dei consigli. Quello che dicevo prima, cioè il fare gruppo, l'aiutarsi, il dialogare, che non sempre è facile. Sotto questo aspetto qua ci mettiamo noi stessi. E quindi quando uno fa la battuta che non viene, c'è sempre un altro che dice ma potresti farla così. E non è un rifiuto subito dalla persona che ha sbagliato, tra virgolette, anzi accetta, cresce e quindi ci autoalimentiamo, che è una cosa molto bella questa. Se no non sarei qua da 3 anni, ragazzi. Ma dove vuoi andare, Paolo? Dove Ma vuoi chi andare? Ti piglia, Paolo? Paolo, quando si Paolo. Parla di adesso, alimentazione... Però devo dire, sei andato in cerca. È l'unico che ti poteva difendere, Daniele, ma anche lui ha ceduto. A me basta solo una parola. Ragazzi, io vengo se dopo andiamo in birreria. Non dovevi dire neanche questo. Ebbene sì, la nostra forza la prendiamo dalla birra post prove. Il tempo non è tanto quello che passiamo sul palco, ma quello che passiamo dopo. Non è vero. Che visione stiamo dando? Drammatizziamo. Però escono dei bellissimi spettacoli. Esatto, le nostre idee, perché noi gli spettacoli ce li scriviamo, ce li scenografiamo, ce li coreografiamo e anche li interpretiamo. Tutto facciamo. Ce li balliamo. Ce li balliamo anche. Creiamo tutto, dall'inizio alla fine. Ma non solo gli spettacoli, anche tutte le nostre iniziative. Bravissima. Per esempio, ci siamo buttati in una cena di ringraziamento per i nostri sponsor... perché tante persone ci hanno aiutato a raggiungere i nostri obiettivi. E a ottobre, quando era ragazzi, ottobre, sì. Abbiamo deciso di fare una cena per ringraziarli. Il 13 ottobre, mi dice Mister Daniele. In quell'occasione non siamo saliti sul palco, ma ognuno di noi è stato messo in un posto. L'ho già detto che siamo dei pazzi incoscienti. Sì, certo, no, sì. No, no, scusate, pensavo di essermi dimenticato. Un tot di noi in cucina, un tot di noi dietro al bancone a fare cocktail, aperitivi, chi all'accoglienza, chi aperitivi. A servire in sala, ci siamo fatti addirittura i centri tavola. I centri tavola, abbiamo allestito proprio... Una lotteria fantastica. Primo premio, una vacanza di 7 giorni. Venite ai nostri eventi, mi raccomando, ragazzi, sponsor, qui un attimo. È gratuita, non preoccupare. Esatto. No, però questo è il bello, che anche in quell'occasione là abbiamo visto gente che ci ha donato. Ci ha donato senza chiedere niente in cambio. Dai premi della lotteria, al vino a servire alla gente, ai prosciutti, perché bisogna ringraziare anche chi ci ha regalato proprio i prosciutti, la porchetta, la soppressa, il grano e quant'altro, non si possono nominare tutti, sono stati tantissimi. Dopo la fantasia degli chef ci ha fatto tutto il resto, vero Cri? Non si capisce, vero, chi era in cucina. Eravamo io, Cristina, Maria Elena, Valentina, Sandro, Sara, veramente... È stato divertente, alternativo, su via. Ci eravamo tarati a 150 persone. Lei mi dà l'idea proprio del teatro, sì, Cristina, vero? Bianco e Santini, qua scrivono. Porco! Questo sei bello. Eh? Poi ci vuole un po' di incoscienza e tanta voglia di stare insieme e determinazione nel portare un sorriso. Thank you. Rieccoci in diretta, grandi barman della Pericena. Eh sì, tanta roba. Buonasera a tutti, sono stato evocato. Sono rimasto rinchiuso da qualche anno nella mia lampada con le mie due danzatrici. Forse è tempo che ritorni a trovarvi. Michelone, il genio. Grande Michelone. Ma vuoi venirci a trovare o vuoi l'odalisca, eh? Qui lo dovete chiedere direttamente, perché almeno che non lo scriva. Uno dei vostri obiettivi nel 2018 era quella di praticamente sostenere l'AIL di Padova, perché appunto voi siete, sì, non dico associati, come si può dire il termine? Collaboriamo. Collaborate con l'AIL, che è l'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. C'era un progetto di assistenza domiciliare del bambino malato tramite la fornitura di un mezzo con a bordo un medico. Com'è andata? È andata bene, Elena, perché siamo riusciti in quell'occasione a donare più di 8.000 euro, e per noi non sono pochi perché siamo piccolini, più di 8.000 euro per questo progetto. Ci lavoravamo da tanto e grazie a tanti sostenitori e al nostro lavoro, perché dobbiamo anche dirci grazie ogni tanto, siamo proprio riusciti in questo intento, abbiamo consegnato questo assegno. E la soddisfazione logicamente torna ad essere tantissima anche per questa occasione. Bellissimo, bellissimo. Io vorrei dedicare anche una parola a chi è stato il padre dell'oncoematologia pediatrica, che è il professor Zanesco, che è stato lui che ha attivato tutto questo a Padova. Poi c'è stato anche un seguito, ma dobbiamo dare il merito a lui che ci ha creduto, ha dovuto lottare, ad esempio ha dovuto lottare anche per far entrare i genitori in stanza dei bambini, perché non era assolutamente permesso. Si è imposto ed ha ottenuto i suoi risultati, e si vedono anche adesso l'importanza di avere un genitore in stanza. Io volevo dedicare questo spazio al professor Zanesco. Perché? Perché c'è una lettera che vi ha scritto il 12 novembre 2018 e dice: con la presente comunichiamo di aver ricevuto il consistente contributo di 5.000 euro in quel momento, versato alla nostra associazione. Tale somma sarà destinata al progetto di assistenza domiciliare pediatrica promosso e finanziato dalla nostra associazione, dove permetteremo ai piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica di Padova di essere curati direttamente a casa grazie alla presenza di un medico oncoematologo, ad infermiere e, se necessario, ad un psicologo e un fisioterapista. Sempre nella lettera viene fatta una citazione di Papa Francesco: che bello se ognuno di noi alla sera potesse dire: oggi ho compiuto un gesto d'amore verso gli altri. Pensate voi quante volte lo avete detto fino adesso questo pensiero. Poi prosegue la lettera: è proprio grazie a gesti d'amore come il vostro che AIL, sezione della provincia di Padova, continua sempre più con forza e vigore a percorrere la strada utile a raggiungere gli importanti impegni e progetti prefissati. Con la firma del presidente dell'AIL di Padova, professor Luigi Zanesco. Chi mi parla un attimo del professor Luigi Zanesco? Diciamo che ho avuto anche, insomma, l'onore di parlargli. Lui mi ha anche chiesto della mia bambina, soprattutto è successo il 6 gennaio quando la bambina ha ballato sul palco, si è fatta vedere, perché lui appunto non esercitando più non era al corrente, però si è interessato molto a lei e mi ha dato anche assolutamente dei segnali positivi di crederci, anzi mi ha anche detto: io sono sicuro che dopo un percorso così un bambino come la tua e come anche molti altri bambini si riscatta e diventa anche più forte magari di quello che poteva essere senza passare per un percorso del genere. Quindi il discorso che mi ha fatto è stato molto fiducioso. Poi io lo stimo particolarmente perché sono al corrente comunque di tutto quello che ha fatto fino ad oggi. Quando ancora negli anni 80, dove lui operava nell'attuale reparto di oncomatologia pediatrica di Padova, che era tra l'altro anche più piccolo di quello di adesso, e è stato lui a farlo ampliare perché i posti letto non bastavano, e lui ha proprio iniziato toccando con mano, da quello che ho saputo e che ho anche letto nei libri, ha toccato proprio con mano, era proprio sempre presente per i piccoli pazienti, dove ancora non c'erano le cure necessarie per guarirli, dove purtroppo la percentuale dei decessi era molto alta, e adesso si sta cercando di arrivare a zero, così aveva anche detto all'ultimo incontro, sì. Lui insieme al professor Basso. Ripartire da zero, sì, ma che ci sia sempre questa possibilità, cioè il loro obiettivo ora è di abbassare sempre di più la percentuale dei decessi, quindi... Questo lo diciamo perché, scusami ti interrompo Veronica, perché ho sentito anche parlare il professor Giuseppe Basso, che parlava proprio di questo, diceva che oggi è per questo anche che parlavo prima di non mollare, come dicevi te giustamente, la speranza, perché ce ne sono i motivi di non abbandonare mai la speranza. E lui diceva appunto che oggi la possibilità di guarigione supera l'80%. L'80%. Esatto. Pensate un po', perché dico, è un risultato straordinario, perché se pensiamo che in pratica negli anni 65 circa, in pratica i bambini arrivavano a 4-5 mesi di aspettativa di vita, non di più. Oggi invece in pratica si fanno tutto il loro passaggio di vita, lavorano, si sposano, fanno figli, arrivano alla vecchiaia. Quindi siamo arrivati a un risultato che è veramente, veramente straordinario. Abbiamo quel 20% ancora da sconfiggere. Ecco. Aiutateci, ragazzi, dai che ce la facciamo. Bravissimo, bravissimo Daniele. Insieme questo, si può. E questo è importante. Comunque anche il professor Basso ha dedicato un pensiero, logicamente, a tutti voi, perché dice che tutto questo avviene grazie alla ricerca e a persone come voi, parliamo voi non... Tutti. Anche come genitori, ma tutte le persone tutti. Che si occupano di e questo, ce ne sono tante. Che non si fermano a guardare la malattia, ma vanno oltre per poter dare un aiuto fondamentale, vitale, per la ricerca e i suoi risultati. I progressi arrivano solo attraverso la ricerca. Ed è appunto che stanno mirando a eliminare quel 20%, ci stanno lavorando e ci arriveranno. Giusto, ed è anche questo di cui parleremo, spero, perché volevo proprio approfondire anche il nostro prossimo obiettivo, uno dei tanti che ci siamo posti per il 2019 e per il futuro. Quello stiamo cercando comunque di affiancare un progetto di ricerca, adesso avremo tra poco, ne parleremo anche con la nuova primario che è la professoressa Biffi, per capire dove intervenire. Oltre ad altri obiettivi, ecco, ci tenevo a dire che c'è anche quello di affiancare in qualche modo, appunto economicamente, un progetto di ricerca specifico, particolare. Stiamo cercando di capire ancora quale, però sono tante ovviamente le sfaccettature, tante anche le esigenze per ogni progetto, ci sono tantissime spese da sostenere, vuoi per pagare il ricercatore stesso, per pagare lo strumento che viene usato per la ricerca, oppure per lo spostamento del personale perché si occupa di quel progetto lì, cioè, c'è sempre bisogno, insomma, quindi... Volevo fare tramite voi un invito al Proloco, alle varie associazioni per mettersi in contatto e poter collaborare con voi. Elena. Volentieri faccio questo invito, perché un obiettivo del 2019 è quello di cercare di allestire una stanza, una piccola stanza all'interno del reparto di oncomatologia pediatrica di Padova, riservata ai genitori. Noi... Quindi questo è un obiettivo che volevamo parlare dopo, quindi diciamo questo è prossimo obiettivo del 2019. Okay. E quindi più spettacoli facciamo, più riusciamo velocemente a raggiungere questo obiettivo. Noi non guardiamo solo ai bambini, ma essendo tutti noi famiglie, il nostro pensiero va inevitabilmente anche ai genitori che restano dentro a quel reparto insieme ai loro bambini giorni, settimane e mesi. vorremmo donare loro una stanza dove potersi rifugiare, e potremmo chiamare la stanza della fuga, potersi rifugiare 5 minuti per sollevare il morale e ritornare poi di fianco, a fianco al figlio. Quindi stiamo lavorando insieme ad un architetto che è anche il nostro sindaco per capire come poter allestire questa piccola stanzetta che esiste già, ma ora è solo un piccolo magazzino, insomma. Bene, e come possono mettersi in contatto con voi? Abbiamo la nostra pagina Facebook dove possono scriverci tramite Messenger o comunque nel sito c'è sicuramente anche la mail. Bene. Avete fatto un conto grosso modo di quanto siete riusciti a donare fino adesso con la vostra associazione? Mamma. Penso allora, che un conto del genere non sia mai stato. Tesoriera, tesoriera, chiedo l'aiuto da casa. La tesoriera non può svelare queste cose segretissime. Una cosa importantissima è che oltre a donare soldi, noi doniamo il nostro tempo al reparto, doniamo tantissima energia e doniamo, come abbiamo detto prima, un pezzo del nostro cuore. Quindi il conto preciso non si può fare. Certo, certo. Sai, beh, è molto complicato, diventa difficile, diciamo, bisogna mettere dentro tutto. Esatto. Infatti anche proprio con le uscite stesse lì non abbiamo, non diamo denaro, anzi diamo gioia, sorrisi e poi dedichiamo il nostro tempo. Il tempo, esatto. Poi ci sono altre collaborazioni che voglio nominare, perché abbiamo fatto una bella sorpresa al Ponte San Nicolò 2016. Sì. Che tramite dei bambini sono saliti sul palco e hanno donato anche loro qualcosa di importante. Ma no? Quella cosa è stata fantastica perché erano 150 nulla. Euro. Non sapevamo nulla, ma 150 euro non erano i soldi dei genitori, certo, erano i soldi dei bambini del Salvadanaio. E ci hanno donato i loro soldi, noi siamo stati veramente quelle sono cose che ti fanno capire che fai qualcosa anche per i bambini, per far capire che il bene porta il bene. Eccola ancora. Però io vi do 30 secondi, no, non di più, a testa, per dire quello che volete, quello che volete della vostra esperienza, quello che il cuore vi dice di dire in questo momento a chi vi ascolta, qualcosa che non siamo riusciti a dire, qualcosa che non sono riuscito a chiedervi. Partiamo da Veronica. Allora, anzi, ti faccio concludere, Veronica. Vabbè. Parto da Cristina. Vai, Cristina. Ops. Che dire, ragazzi? Ovviamente questa esperienza tutti insieme è bellissima, nel senso che viene fuori proprio molto di cose di noi che anche non conosciamo, ma le andiamo un po' a scoprire. Non è facile sempre convivere, come nelle grandi famiglie, nelle piccole ci sono momenti di tensione, ci sono momenti in cui ci si allontana, ma si torna sempre, perché comunque è una forza, è un obiettivo, è una luce che scalda, migliora e ci fa andare avanti veramente pensando di portare un qualcosina. E prendiamo tanto, almeno io personalmente prendo tanto. Tocca a me? Vai, a te. Vai Daniele. Allora io dico che col sorriso e con la voglia di stare insieme si fa tanto. A volte non ci si crede fino in fondo, cioè se non ti fermi a pensare, ma se salgo sul palco, ma se aspetto di avere tutto quanto per fare una cosa, non ci riesci. Quindi quando parlo di sana incoscienza, penso che ci vuole un po' di sana incoscienza, perché non sei solo. Io nel mio gruppo mi sento supportato da tutti. Quando io scrivo gli spettacoli, però scrivo una traccia, dopo glielo dico sempre: ragazzi, ci dovete mettere di vostro, perché se no lo spettacolo non viene come io l'ho pensato. E questo è il messaggio che voglio lanciare: bisogna crederci e andare col sorriso e con quello che ognuno vale. Grazie Daniele. Paolo? Io quello che mi sento di dire è non aver mai paura di buttarsi, di fare brutte figure, di aver paura proprio di essere se stessi. Perché sì, io lo scrivo tante volte anche in Facebook, ormai è una mia prerogativa, quella che fare il pagliaccio, rendermi ridicolo agli altri, se gli altri ridono, a me va benissimo. Hai raggiunto il tuo scopo. Esatto. Ecco, io voglio ringraziarti anche Paolo, perché tu sei stato il tramite per fare arrivare questo gruppo meraviglioso qui a, a Radio Cooperativa e far conoscere questa, questa realtà. Quindi ti devo dire grazie. Prego. Elena. Anch'io voglio dire grazie. Voglio dire grazie a noi che ci mettiamo tutta l'energia possibile. Voglio dire grazie alle nostre famiglie che ci permettono di fare questa cosa, perché se noi non abbiamo alle spalle qualcuno che ci sostiene, che sta a casa con i nostri figli, che ci aiuta nel momento di montare il palco, di smontarlo o qualsiasi altro tipo di attività, non saremmo arrivati fino a qua, ecco. E voglio dire grazie a quelli che credono in noi. Sono tanti quelli che ci sostengono, o con le parole, o con denaro, o con donazioni di altro tipo. Voglio dire grazie a chi ci ha ospitato stasera, perché è una grande occasione, ci ha emozionato. Possiamo dire di aver fatto anche questa. Adesso non mettiamo nel curriculum, ragazzi. Non fermatevi, fatevi conoscere anche tramite l'FM. Volentieri, quindi invitateci, signori tutti, invitateci. Ma veramente, ci ritroveremo qua comunque. Ma benissimo, noi siamo disponibili, anzi te ne mandiamo altri 5. No, altri 5 pazzi. A furia di 5 arriveri tutti. Ecco, solo grazie veramente a chi ci sta intorno. Veronica? Allora io vorrei, visto che ho questo onore di concludere, citare una frase che mi piace ripetere a me stessa, e dopo l'ho anche detta sul palco più volte. È una frase che rivolgo alle persone che soffrono, e ai genitori, ai bambini. Se nella vita non tutto finisce come si sperava, si può sempre sperare in un nuovo inizio, una nuova partenza e quindi una rinascita. Questo io auguro a tutti. Grazie Veronica. Grazie Veronica. Grazie. Io a questo punto termino. Voglio ringraziarvi voi uno per uno. E grazie a Veronica Bonomo, che grazie. È la presidentessa appunto dell'Associazione Genitori in Fuga. Cristina Rossi. Grazie Cristina. Grazie a tutti voi. Elena Magello. Grazie. Grazie a te Elena. Daniele Minozzi. Grazie. E per i grazie che ti ho detto prima ti nomino per ultimo, Paolo Favarata. Grazie a te, Gilles. Grazie mille. Grazie a tutti i componenti dell'Associazione Genitori in Fuga, che sono tanti, non li nominiamo perché abbiamo detto che sono troppi. Veramente tanti, sono troppi, quindi grazie a tutti voi per quello che fate. Un mio pensiero, anzi un nostro pensiero di tutta Radio Cooperativa, va a tutti i bambini e tutti i genitori, sicuri che un futuro migliore potrà esserci, e a tutte quelle persone che camminano con loro per tanti motivi, con vari ruoli, attraverso il loro futuro. Vi ringrazio di esistere e vi abbraccio a tutti. Grazie. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. The scars. un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna